Buonasera e bentornati a questa trasmissione, nuova trasmissione di Mike FM. In realtà si tratterà di una compilation creata e caricata e mandata in diretta differita. Infatti io vi parlo in questo momento da Lisbona, dove sono tornata come ogni tanto faccio, e in questa occasione anche per partecipare ad un festival, ovvero, come abbiamo scritto, si tratta del Lisboa Dance Festival, che si svolgerà venerdì e sabato il 10 e l'11 presso Hashish Factory, uno spazio fondamentale nella realtà urbana contemporanea di questa città, un vecchio stabilimento industriale adesso convertito in spazio di co-working, sede di piccole ditte e studi dedicati alla moda, alla grafica, all'architettura, al design. È uno spazio molto molto bello, dove nascono sempre cose nuove, dove c'è il mercatino domenicale, tanti posti per mangiare, e che ospita anche una delle più belle librerie del mondo, l'Air de Vagar, e in questo weekend ospiterà il Lisboa Dance Festival, curato da Branco e Mulinex, musicisti di spicco della scena portoghese, uno parte del Buraca Som Sistema e che rappresenta in un certo senso la musica del sud del mondo, l'Afro-Brasil, che va tanto in questi ultimi anni, mentre Mulinex è la parte un po' più patinata, occidentale, insomma classica della scena dance. Come abbiamo scritto, durante questi due giorni ci saranno anche dei workshop, delle masterclass, dei dibattiti e poi un'area market, ovviamente. È tutto appunto curato da Branco e Mulinex, che avranno i loro rispettivi ospiti, per Branco anche il nostro Cristiano Crisci, ovvero Clap Clap. E nell'ambito di questi due giorni ci saranno tantissimi musicisti anche della scena hip hop, rap locale, e nomi grandi, diciamo, della scena dance internazionale. È senz'altro uno dei più grandi, Effilos e Love Affair, e poi per l'ambito techno è Marcel Detman, poi George Fitzgerald, Mount Kimby, Jesse Lanza, Uni, Only Nothing, Lynx, Toki Monsta e Maikino, e poi ovviamente Branco e Mulinex. E in questa prossima ora e 20 ci ascolteremo un po' di tutti questi artisti. Buon ascolto con Mighty FM.

not realize the love we have has crystallized around my heart, a clear divide. When all that's left, we crystallize, forming edges round our mind. The love we have has crystallized, a beating prism deep inside. When all that's left, we crystallize around my heart, a clear divide. The love we have has crystallized, and forming edges round our mind. When all that's left, we crystallize. I'll give you everything.

We'll be right back. Come away, away. places, but they said eyes closed, shivering through the cold. Now the waves are coming in packs. I just hope that they'll hold on to something true. Only time I know to gather all those spaces in between your soul. Now is the only time you know. If you were where you are, you could feel like home. Thank you. Thank you. We'll be right back.